La volpe dalla coda mozza, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Una volpe, più furba del diavolo, che sentiva di volpe lunghe un miglio, famosa mangiatrice di galline e terror d'ogni coniglio, un giorno restò presa in una trappola. Poté fuggir, ma nel fuggir la coda restò tre ferri in pegno. Piena di rabbia, quindi, e di disdegno, non volendo esser sola in quella moda, un dì nell'assemblea delle volpi esponeva questa idea: «Che mai si fa di questa roba inutile che spazza il sozzo fango della via? Non sarebbe più bello e assai più comodo addirittura di tagliarla via?» «Magnifica proposta!» soggiunse qualcheduno vi presente. «Voltatevi di là, madama, e subito avrete la risposta!» A questo dir scoppiò di risa un tale fracasso generale che seguitò la coda a rimaner di moda. Fine della favola La volpe dalla coda mozza. Questa registrazione è di dominio pubblico.